America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We discussed the Trans-Pacific Partnership or TPP. Barack Obama, lo avete sentito, il presidente americano, è una breve dichiarazione che ha fatto ieri in Vietnam, dove è arrivato per la sua prima visita in questo paese ex nemico. Subito dopo la tappa in Vietnam, Barack Obama sarà in Giappone e parteciperà al suo ultimo G7, che oltre che alle problematiche geopolitiche, Ucraina, Russia e così via, c'è anche la questione economica, una questione economica molto forte. Perché? Beh, perché Barack Obama arriva con un'America pronta ad alzare i tassi di interesse. Sentiamo Dudley. So I'm actually quite pleased to see that that probability has. William Dudley, governatore della Federal Reserve, la settimana scorsa ha detto che probabilmente i tassi di interesse in America aumenteranno durante l'estate se l'economia continuerà a crescere. Ecco, questo è un se non da poco, perché se è vero che l'inflazione ha dato dei segnali di ripresa e che un po' tutti pensano che la Federal Reserve potrebbe aumentare i tassi di interesse già a giugno o a luglio, e beh, questo aumento ci sarà se non avremo una battuta d'arresto dell'economia americana. Ma io vorrei chiudere questa puntata con una piccola coda di un solo andata molto particolare. Ho con me ai microfoni di America 24 Andrea Barbuto, che è stato il producer di questo nostro show radiofonico per quasi 2 anni. Buongiorno Andrea. Ciao Mario, buongiorno. Eccoci. Allora, Andrea mi ha tenuto compagnia così nella solitudine di questi microfoni, questa sala di registrazione, appunto, come vi ho detto, per parecchio tempo. È già un po' che si sta preparando, si sta un po' godendo New York, e ne approfitto per annunciarvi il suo sostituto, che invece il biglietto di sola andata l'ha appena acquistato ed è con noi da qualche settimana, e cioè Emanuele Brignoli. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Mario, grazie. Eccomi qua, pronto per cominciare questa nuova avventura. Allora Andrea, è volato il tempo o no? Sì Mario, 2 anni sono volati via. Ecco, sono volati via, ma adesso, guarda, tanto ormai te ne stai andando, dimmela tutta, perché in effetti abbiamo avuto anche qualche urletto, insomma, non è che ci sono sempre un po' di tensioni. Scambi di opinioni a volumi alti, diciamo. Ecco, esatto. Scambi di opinioni a volumi alti, però racconta ai nostri ascoltatori, al di là di quella che è stata la nostra esperienza di lavoro sulla trasmissione, che cosa è stato stare a New York per questi 2 anni? Beh, New York è stato un amore a prima vista. Sono arrivato qui che dovevo rimanere solo pochi mesi, alla fine ho passato 2 anni intensi in cui ho incontrato persone di ogni etnia, da qualunque parte del mondo, con le quali ho condiviso tantissimo. Questi sono giorni un po' particolari perché sto chiudendo un capitolo per riaprirne un altro, decido di tornare in Italia per amore. Ah, per amore, vedi, hai capito? Cioè, qui sì. Allora facciamo suonare i violini. Tra l'altro, diciamo, un paio di cose. Voi, Andrea, dovreste immaginarvelo perché ha la barba, insomma, è un ragazzo alto e calabrese. Quindi tutti i calabresi che in questo momento ci ascoltano, come dire, apprezzeranno che questo ragazzo rientra in Italia per amore, per un'altra calabrese, se non sbaglio. Sì. Ecco, moglie e voi dei paesi tuoi. Ecco, Andrea, devo dire, c'è una cosa però che, insomma, non so, forse non dovrei dirla così live, però dove mi risulta che tu non abbia tenuto la bandiera italiana alta, cioè in queste partite di calcio che so che organizzavate ogni tanto fra tutti i gruppetti di italiani che si ritrovano a New York, alla quale, tra l'altro, non mi avete mai invitato, e di questo c'è un piccolo risentimento. Nonostante sapessimo che fossi una grande ala sinistra, infatti sì, questo è vero. Beh sì, forse tornerò in Italia con qualche rimpianto dal punto di vista sportivo, però per quanto riguarda l'esperienza è stata un'esperienza talmente entusiasmante, talmente ricca di emozioni, di momenti che hanno scandito questi 2 anni di vita, di persone incontrate. A volte è sembrato quasi che fossi in un film. E poi ovviamente dal punto di vista professionale, l'aver raccontato l'America, l'aver scritto tanto sull'America, l'aver lavorato insieme a te a questo programma, parlando di elezioni, parlando di politica, parlando di economia, parlando di tante cose, è stato un qualcosa di assolutamente unico ed indimenticabile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, con me sempre Andrea Barbuto. Andrea, quante canzoni abbiamo scelto del giorno? Con fatica, con litigi, questa sì, questa no, insomma. Allora, oggi la canzone la scegli te. Campo libero, cosa scegli come addio all'America? Beh, abbiamo raccontato un po' di quante nottate insieme abbiamo passato qui in radio. Una delle canzoni che mi ha tenuto spesso compagnia tornando a casa in metropolitana è stata New York City Serenade di Bruce Springsteen. New York City Serenade di Bruce Springsteen. Beh, devo dire, giusta, nostalgica, beh, è molto moody, molto adatta al ricordo. Billy, he's down by the railroad track, sitting low in the back seat of his Cadillac. Diamond jacket, she's so intact, and she falls so softly beneath him. Jackie's heels are stacked, Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.